Ad alta voce, Michela Cescon legge Le piccole virtù di Natalia Ginzburg. Seconda puntata. Ritratto d'un amico. La città che era cara al nostro amico è sempre la stessa. C'è qualche cambiamento, ma cose da poco. Hanno messo dei filobus, hanno fatto qualche sottopassaggio. Non ci sono cinematografi nuovi. Quelli antichi ci sono sempre, coi nomi d'una volta. Nomi che ridestano in noi a ripeterli la giovinezza e l'infanzia. Noi ora abitiamo altrove, in un'altra città tutta diversa e più grande. E se ci incontriamo e parliamo della nostra città, ne parliamo senza rammarico d'averla lasciata e diciamo che ora non potremo più viverci. Ma quando vi ritorniamo, ci basta attraversare l'atrio della stazione e camminare nella nebbia dei viali per sentirci proprio a casa nostra. E la tristezza che ci ispira la città ogni volta che vi ritorniamo è in questo sentirci a casa nostra e sentire nello stesso tempo che noi a casa nostra non abbiamo più ragione di stare. Perché qui a casa nostra, nella nostra città, nella città dove abbiamo trascorso la giovinezza, ci rimangono ormai poche cose viventi e siamo accolti da una folla di memorie e di ombre. La nostra città, del resto, è malinconica per sua natura. Nelle mattine d'inverno ha un suo particolare odore di stazione fuliggine, diffuso in tutte le strade e in tutti i viali. Arrivando al mattino, la troviamo grigia di nebbia e ravviluppata in quel suo odore. Filtra qualche volta, attraverso la nebbia, un sole fioco che tinge di rosa e di lilla i mucchi di neve, i rami spogli delle piante. La neve nelle strade e sui viali è stata spalata e radunata in piccoli cumuli, ma i giardini pubblici sono ancora sepolti sotto una fitta coltre intatta e soffice, alta un dito sulle panchine abbandonate e sugli orli delle fontane. L'orologio del galoppatoio è fermo, da tempo incalcolabile, sulle 11:15. Di là del fiume s'alza la collina, anch'essa bianca di neve, ma chiazzata qua e là d'una sterpaglia rossastra, e in vetta alla collina torreggia un fabbricato color arancione di forma circolare che fu un tempo l'Opera Nazionale Balilla. Se c'è un po' di sole e risplende la cupola di vetro del salone dell'automobile e il fiume scorre con un luccichio verde sotto i grandi ponti di pietra, la città può anche sembrare per un attimo ridente e ospitale, ma è un'impressione fuggevole. La natura essenziale della città è la malinconia. Il fiume, perdendosi in lontananza, svapora in un orizzonte di nebbie violacee che fanno pensare al tramonto anche se è mezzogiorno. E in qualunque punto si respira quello stesso odore cupo e laborioso di fuliggine e si sente un fischio di treni. La nostra città rassomiglia, noi adesso ce ne accorgiamo, all'amico che abbiamo perduto e che l'aveva cara. È come era lui, laboriosa, aggrondata in una sua operosità febbrile e testarda, ed è nello stesso tempo svogliata e disposta a oziare e a sognare. Nella città che gli rassomiglia, noi sentiamo rivivere il nostro amico dovunque andiamo, in ogni angolo e ad ogni svolta ci sembra che possa ad un tratto apparire la sua alta figura dal cappotto scuro a martingala, la faccia nascosta nel bavero, il cappello calato sugli occhi. L'amico misurava la città col suo lungo passo, testardo e solitario. Si rintanava nei caffè più appartati e fumosi, si liberava svelto dal cappotto e dal cappello, ma teneva buttata attorno al collo la sua brutta sciarpetta chiara. Si attorcigliava intorno alle dita le lunghe ciocche dei suoi capelli castani e poi si spettinava all'improvviso, con mossa fulminea. Riempiva foglie e foglie della sua calligrafia larga e rapida, cancellando con furia, e celebrava nei suoi versi la città. Questo è il giorno che salgono le nebbie dal fiume, nella bella città, in mezzo a prati e colline, e la sfumano come un ricordo. I suoi versi risuonano al nostro orecchio quando ritorniamo alla città e quando ci pensiamo. E non sappiamo neppure più se siano bei versi, tanto fanno parte di noi, tanto riflettano per noi l'immagine della nostra giovinezza, dei giorni ormai lontanissimi in cui li ascoltammo dalla viva voce del nostro amico per la prima volta. E scoprimmo, con profondo stupore, che anche della nostra grigia, pesante e impoetica città si poteva fare poesia. Il nostro amico viveva nella città come un adolescente e fino all'ultimo visse così. Le sue giornate erano come quelle degli adolescenti, lunghissime e piene di tempo. Sapeva trovare spazio per studiare e per scrivere, per guadagnarsi la vita e per oziare sulle strade che amava. E noi che annaspavamo combattuti fra pigrizia e operosità, perdavamo le ore nell'incertezza di decidere se eravamo pigri o operosi. Non volle per molti anni sottomettersi a un orario d'ufficio, accettare una professione definita, ma quando acconsentì a sedere a un tavolo d'ufficio, divenne un impiegato meticoloso e un lavoratore infaticabile. Pur serbandosi un ampio margine d'ozio, consumava i suoi pasti velocissimo, mangiava poco e non dormiva mai. Era qualche volta molto triste, ma noi pensammo per lungo tempo che sarebbe guarito di quella tristezza quando si fosse deciso a diventare adulto, perché ci pareva la sua una tristezza come di ragazzo, la malinconia voluttuosa e svagata del ragazzo che ancora non ha toccato la terra e si muove nel mondo arido e solitario dei sogni. Qualche volta la sera ci veniva a trovare, sedeva pallido con la sua sciarpetta al collo e si attorcigliava i capelli o sgualciva un foglio di carta. Non pronunciava in tutta la sera una sola parola. Non rispondeva a nessuna delle nostre domande. Infine, di scatto, agguantava il cappotto e se ne andava. Umiliati, noi ci chiedevamo se la nostra compagnia l'aveva deluso e se aveva cercato accanto a noi di rasserenarsi e non c'era riuscito. O se invece si era proposto semplicemente di passare una serata in silenzio sotto una lampada che non fosse la sua. Conversare con lui, d'altronde, non era mai facile, nemmeno quando si mostrava allegro. Ma poteva essere, un incontro con lui anche composto di rare parole, tonico e stimolante come nessun altro. Diventavamo in sua compagnia molto più intelligenti, ci sentivamo spinti a portare nelle nostre parole quanto avevamo in noi di migliore e di più serio. Buttavamo via i luoghi comuni, i pensieri imprecisi, le incoerenze. Ci sentivamo spesso accanto a lui umiliati, perché non sapevamo essere come lui sobri, né come lui modesti, né come lui generosi e disinteressati. Ci trattava, noi suoi amici, con maniere ruvide e non ci perdonava nessuno dei nostri difetti. Ma se eravamo sofferenti o malati, si mostrava ad un tratto sollecito come una madre. Per principio si rifiutava di conoscere gente nuova, ma poteva succedere che a un tratto, con una persona impensata e mai vista prima, una persona magari vagamente spregevole, lui si mostrasse espansivo e affettuoso, prodigo d'appuntamenti e progetti. Se gli facevamo osservare che quella persona era, per molti aspetti, antipatica e spregevole, lui diceva che lo sapeva benissimo, perché gli piaceva sapere sempre tutto. Non ci accordava mai la soddisfazione di raccontargli qualcosa di nuovo. Ma per qual motivo si comportasse con quella persona così confidenzialmente e negasse invece la sua cordialità ad altra gente più meritevole, non lo spiegava. E non l'abbiamo saputo mai. A volte si incuriosiva di qualche persona che lui pensava provenisse da un mondo elegante e la frequentava. Forse contava di giovarsene per i suoi romanzi, ma nel giudicare la raffinatezza sociale o di costume si sbagliava e scambiava per cristallo dei fondi di bottiglia. E in questo era, ma soltanto in questo, molto ingenuo. Si sbagliava sulla raffinatezza di costume, ma quanto alla raffinatezza di spirito e di cultura non si lasciava prendere in inganno. Aveva un modo avaro e cauto di dare la mano nel salutare, poche dita concesse e ritolte. Aveva un modo schivo e parsimonioso di trarre il tabacco dalla borsa e riempirsi la pipa. E aveva un modo brusco e subitaneo di regalarci del denaro se sapeva che ne avevamo bisogno. Un modo così brusco e subitaneo che ne restavamo sbalorditi. Era, lui diceva, avaro del denaro che possedeva e soffriva nel separarsene, ma appena se n'era separato, subito se ne infischiava. Se eravamo lontani da lui, non ci scriveva, né rispondeva alle nostre lettere, o rispondeva con poche frasi recise e agghiaccianti, perché diceva non sapeva voler bene agli amici quando erano lontani, non voleva soffrire della loro assenza e subito li inceneriva nel proprio pensiero. Non ebbe mai una moglie, né dei figli, né una casa sua. Abitava presso una sorella sposata che gli voleva bene e alla quale lui voleva bene, ma usava in famiglia i suoi soliti modi ruvidi e si comportava come un ragazzo o come un forestiero. Veniva a volte nelle nostre case e scrutava con cipiglio aggrottato e bonario i figli che ci nascevano, le famiglie che noi ci si costruiva. Pensava anche lui a farsi una famiglia, ma ci pensava in un modo che si faceva con gli anni sempre più complicato e tortuoso, così tortuoso che non ne poteva germogliare nessuna semplice conclusione. Si era creato con gli anni un sistema di pensieri e di principi così aggrovigliato e inesorabile da vietargli l'attuazione della realtà più semplice. E quanto più proibita e impossibile si faceva quella semplice realtà, tanto più profondo in lui diventava il desiderio di conquistarla, aggrovigliandosi e ramificando come una vegetazione tortuosa e soffocante. Era qualche volta così triste, e noi avremmo pur voluto venirgli in aiuto, ma non ci permise mai una parola pietosa, un cenno di consolazione, e accadde anzi che noi, imitando i suoi modi, respingessimo nell'ora del nostro sconforto la sua misericordia. Non fu per noi un maestro, pur avendoci insegnato tante cose, perché vedevamo bene le assurde e tortuose complicazioni di pensiero nelle quali imprigionava la sua semplice anima, e avremmo anche noi voluto insegnargli qualcosa, insegnargli a vivere in un modo più elementare e respirabile, ma non ci riuscì mai di insegnargli nulla, perché quando tentavamo di esporgli le nostre ragioni, alzava una mano e diceva che lui sapeva già tutto. Aveva negli ultimi anni un viso solcato e scavato, devastato da travagliati pensieri, ma conservò fino all'ultimo nella figura la gentilezza d'un adolescente. Diventò negli ultimi anni uno scrittore famoso, ma questo non mutò in nulla le sue abitudini schive, né la modestia della sua attitudine, né l'umiltà coscienziosa fino allo scrupolo del suo lavoro d'ogni giorno. Quando gli chiedevamo se gli piaceva d'essere famoso, rispondeva con un ghigno superbo che se l'era sempre aspettato. Aveva a volte un ghigno astuto e superbo, fanciullesco e malevolo, che lampeggiava e spariva. Ma quell'esserselo sempre aspettato significava che la cosa raggiunta non gli dava più nessuna gioia, perché era incapace di godere delle cose e di amarle non appena le aveva. Diceva di conoscere ormai la sua arte così a fondo che essa non gli offriva più nessun segreto, e non offrendogli più segreti non lo interessava più. Noi stessi suoi amici, lui ci diceva, non avevamo più segreti per lui e lo annoiavamo infinitamente. E noi, mortificati da annoiarlo, non riuscivamo a dirgli che vedevamo bene dove sbagliava, nel non volersi piegare ad amare il corso quotidiano dell'esistenza, che procede uniforme e apparentemente senza segreti. Gli restava dunque da conquistare la realtà quotidiana, ma questa era proibita e imprendibile per lui, che ne aveva insieme sete e ribrezzo, e così non poteva che guardarla come da sconfinate lontananze. È morto d'estate. La nostra città d'estate è deserta e sembra molto grande, chiara e sonora come una piazza. Il cielo è limpido ma non luminoso, di un pallore latteo. Il fiume scorre piatto come una strada, senza aspirare umidità né frescura. S'alzano dai viali folate di polvere. Passano, venendo dal fiume, grossi carri carichi di sabbia. L'asfalto del corso è tutto spalmato di pietruzze che cuociono nel catrame. All'aperto, sotto gli ombrelloni a frange, i tavolini dei caffè sono abbandonati e roventi. Non c'era nessuno di noi. Scelse per morire un giorno qualunque di quel torrido agosto e scelse la stanza di un albergo nei pressi della stazione, volendo morire nella città che gli apparteneva come un forestiero. Aveva immaginato la sua morte in una poesia antica di molti e molti anni prima. Non sarà necessario lasciare il letto. Solo l'alba entrerà nella stanza vuota. Basterà la finestra a vestire ogni cosa d'un chiarore tranquillo, quasi una luce. Poserà un'ombra scarna sul volto supino. I ricordi saranno dei grumi d'ombra appiattati così come vecchia brace nel camino. Il ricordo sarà la vampa che ancor ieri mordeva negli occhi spenti. Andammo poco tempo dopo la sua morte in collina. C'erano osterie sulla strada, con pergolati d'uva rosseggiante, giochi di bocce, cataste di biciclette. C'erano cascinali con grappoli di pannocchie, l'erba falciata stesa ad asciugare sui sacchi, il paesaggio al margine della città e sul limitare dell'autunno che lui amava. Guardammo sulle sponde erbose sui campi arati salire la notte di settembre. Eravamo tutti molto amici e ci conoscevamo da tanti anni, persone che avevano sempre lavorato e pensato insieme, come succede fra chi si vuole bene ed è stato colpito da una disgrazia. Cercavamo ora di volerci più bene e di accudirci e proteggerci l'un con l'altro, perché sentivamo che lui, in qualche sua maniera misteriosa, ci aveva sempre accuditi e protetti. Era più che mai presente su quella proda della collina. Ogni occhiata che torna conserva un gusto di erba e cose impregnate di sole a sera sulla spiaggia. Conserva un fiato di mare. Come un mare notturno è quest'ombra vaga di ansie e brividi antichi che il cielo sfiora. E ogni sera ritorna. Le voci morte assomigliano al frangersi di quel mare. Il figlio dell'uomo. C'è stata la guerra e la gente ha visto crollare tante case e adesso non si sente più sicura nella sua casa come era quieta e sicura una volta. C'è qualcosa di cui non si guarisce e passeranno gli anni, ma non guariremo mai. Magari abbiamo di nuovo una lampada sul tavolo e un vasetto di fiori e i ritratti dei nostri cari. Ma non crediamo più a nessuna di queste cose perché una volta le abbiamo dovute abbandonare all'improvviso o le abbiamo cercate inutilmente fra le macerie. È inutile credere che possiamo guarire di 20 anni come quelli che abbiamo passato. Chi di noi è stato un perseguitato non ritroverà mai più la pace. Una scampanellata notturna non può significare altro per noi che la parola questura. Ed è inutile dire e ripetere a noi stessi che dietro la parola questura ci sono adesso forse volti amici ai quali possiamo chiedere protezione e assistenza. In noi quella parola genera sempre diffidenza e spavento. Se guardo i miei bambini che dormono, penso con sollievo che non dovrò svegliarli nella notte e scappare. Ma non è un sollievo pieno e profondo. Mi pare sempre che un giorno o l'altro dovremo di nuovo alzarci di notte e scappare e lasciare tutto dietro a noi, stanze quiete e lettere e ricordi e indumenti. Una volta sofferta, l'esperienza del male non si dimentica più. Chi ha visto le case crollare sa troppo chiaramente che labili beni siano i vasetti di fiori, i quadri, le pareti bianche. Sa troppo bene di cosa è fatta una casa. Una casa è fatta di mattoni e di calce e può crollare. Una casa non è molto solida. Può crollare da un momento all'altro. Dietro i sereni vasetti di fiori, dietro le teiere, i tappeti, i pavimenti lucidati a cera, c'è l'altro volto vero della casa. Il volto atroce della casa crollata. Non guariremo più di questa guerra, è inutile. Non saremo mai più gente serena, gente che pensa e studia e compone la sua vita in pace. Vedete cosa è stato fatto delle nostre case. Vedete cosa è stato fatto di noi. Non saremo mai più gente tranquilla. Abbiamo conosciuto la realtà nel suo volto più tetro. Non ne proviamo più disgusto ormai. C'è ancora qualcuno che si lagna del fatto che gli scrittori si servono d'un linguaggio amaro e violento, che raccontino cose dure e tristi, che presentino nei suoi termini più desolati la realtà. Noi non possiamo mentire nei libri e non possiamo mentire in nessuna delle cose che facciamo. E forse questo è l'unico bene che ci è venuto dalla guerra. Non mentire e non tollerare che ci mentano gli altri. Così siamo adesso noi giovani, così è la nostra generazione. Gli altri più vecchi di noi sono ancora molto innamorati della menzogna, dei veli e delle maschere di cui si circonda la realtà. Il nostro linguaggio li rattrista e li offende. Non capiscono il nostro atteggiamento di fronte alla realtà. Noi siamo vicini alle cose nella loro sostanza. È il solo bene che ci ha dato la guerra, ma l'ha dato soltanto a noi giovani. Agli altri più vecchi di noi non ha dato che malsicurezza e paura. E anche noi giovani abbiamo paura. Anche noi ci sentiamo malsicuri nelle nostre case. Ma non siamo inermi di fronte a questa paura. Abbiamo una durezza e una forza che gli altri prima di noi non hanno mai conosciuto. Per alcuni la guerra è cominciata soltanto con la guerra, con le case crollate e i tedeschi. Ma per altri è cominciata prima, fin dai primi anni del fascismo, e così quel senso di malsicurezza e di continuo pericolo è ancora più grande. Il pericolo, il senso di doversi nascondere, il senso di dover lasciare all'improvviso il calore del letto e delle case, per tanti di noi è cominciato molti anni fa. Si è insinuato negli svaghi giovanili, ci ha seguito sui banchi della scuola e ci ha insegnato a vedere nemici dovunque. Così è stato per tanti di noi, in Italia e altrove, e si credeva che un giorno avremmo potuto camminare in pace sulle strade delle nostre città. Ma oggi che potremmo forse camminare in pace, oggi noi ci accorgiamo che non siamo guariti di quel male. Così siamo costretti a cercare sempre nuove forze, sempre una nuova durezza da contrapporre a qualsiasi realtà. Siamo spinti a cercare una serenità interiore che non nasce dai tappeti e dai vasetti di fiori. Non c'è pace per il figlio dell'uomo. Le volpi e i lupi hanno le loro tane, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. La nostra generazione è una generazione di uomini, non è una generazione di volpi e di lupi. Ciascuno di noi avrebbe molta voglia di posare il capo da qualche parte, ciascuno avrebbe voglia di una piccola tana asciutta e calda, ma non c'è pace per i figli degli uomini. Ciascuno di noi una volta nella sua vita si è illuso di potersi addormentare su qualche cosa, impadronirsi di una certezza qualunque, di una fede qualunque e riposarsi le membra. Ma tutte le certezze di allora ci sono state strappate e la fede non è mai qualcosa dove si possa infine prendere sonno. E siamo gente senza lacrime ormai. Quello che commuoveva i nostri genitori non ci commuove più affatto. I nostri genitori e la gente più vecchia di noi ci rimprovera per il modo che abbiamo di allevare i bambini. Vorrebbero che mentissimo ai nostri figli come loro mentivano a noi. Vorrebbero che i nostri bambini si trastullassero con fantocci di felpa in graziose stanze, riverniciate di rosa, con alberelli e conigli dipinti sulle pareti. Vorrebbero che circondassimo di veli e di menzogne la loro infanzia, che tenessimo loro accuratamente nascosta la realtà nella sua vera sostanza. Ma noi non lo possiamo fare. Non lo possiamo fare con dei bambini che abbiamo svegliato di notte, vestito convulsamente nel buio, per scappare o nasconderci, o perché la sirena d'allarme lacerava il cielo. Non lo possiamo fare con dei bambini che hanno veduto lo spavento e l'orrore sulla nostra faccia. A questi bambini noi non possiamo metterci a raccontare che li abbiamo trovati nei cavoli o di chi è morto dire che è partito per un lungo viaggio. C'è un abisso incolmabile fra noi e le generazioni di prima. I loro pericoli erano irrisori e le loro case crollavano assai raramente. Terremoti e incendi non erano fenomeni che si verificassero di continuo per tutti. Le donne lavoravano a maglia e ordinavano il pranzo alla cuoca e ricevevano le amiche nelle case che non crollavano. Ciascuno meditava e studiava e attendeva a comporre la sua vita in pace. Era un altro tempo e magari si stava bene. Ma noi siamo legati a questa nostra angoscia e in fondo lieti del nostro destino di uomini.